Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta e ci sono io che parlo in radio, o su Twitter digitando chiocciola Luogo C, oppure scriveteci una mail con suggerimenti, apprezzamenti oppure critiche, speriamo poche quelle, luogocomune.radio@gmail.com. Il luogo comune che tratteremo oggi è amico di tutti, amico di nessuno, e ne parliamo in collegamento telefonico con Dario Briccola, presidente di Telefono Amico Italia. Buongiorno dottor Briccola. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, proprio per i nostri radioascoltatori iniziamo con una domanda di rito, ovvero che cos'è Telefono Amico, quando nasce e che scopi si prefigge? Allora, Telefono Amico è un'associazione di volontariato, prima di tutto, che fa soprattutto ascolto telefonico. Noi siamo nati all'incirca una cinquantina di anni fa ormai, quando mutuando un po' quest'idea soprattutto dall'Inghilterra, dove era nato un servizio una decina d'anni prima rivolto soprattutto per la prevenzione del suicidio, ma poi verificatosi invece che tantissima gente chiamava questo servizio non solo per quell'idea insana, ma anche soprattutto per il bisogno di compagnia o per la solitudine o per tutte le altre problematiche, anche in Italia abbiamo cominciato a fare questo servizio. Quindi intorno agli anni 60 i primi centri sono nati praticamente nelle città più grosse, e da lì poi si sono sviluppati anche nelle altre città, per cui in quasi tutte le nostre città italiane c'è un servizio praticamente che fa Telefono Amico. Al giorno d'oggi su quanti operatori circa potete contare, ecco? Allora, noi come associazione nazionale riuniamo 21 centri di Telefono Amico in Italia, in gran parte dell'Italia abbiamo centri, insomma. In questo momento ne avremmo all'incirca 700 volontari che rispondono al telefono. Beh, 700 volontari in tutta Italia, insomma, riuscite a coprire, io stavo leggendo che voi coprite come servizio orario dalle 10 a mezzanotte, pressappoco, ed è, tra l'altro, è stato istituito dal 2006 un numero unico al quale ci si può rivolgere, ecco, quindi avete cercato un pochino di uniformare, ecco, il servizio per tutta la penisola. Sì, sì, sì, questo è sempre stato il nostro obiettivo fin da quando siamo nati, poi un po' alla volta lavorandoci per, ci siamo riusciti solo nel 2006. Nel 2006 noi abbiamo costituito questo numero unico che è l'199-284-284 e a cui rispondiamo ininterrottamente, come diceva lei, dalle 10 alle 24 tutti i giorni per 365 giorni all'anno. Ce la facciamo con 700 volontari? Dovrei dire di sì, perché è così in questo momento. È vero però che siamo comunque in pochi per svolgere il servizio, ci sono delle fasce orarie dove non siamo in molti, lei capisce che più siamo più servizio potremo dare, per cui noi cerchiamo sempre nuovi volontari da questo punto di vista. Senta, dottor Briccola, ma la recessione economica dal 2008 pressappoco in realtà la stiamo vivendo anche da un pochino di più, però ecco, in maniera presente e pressante dal 2008, facciamo per dare una collocazione temporale, ha aumentato il senso di smarrimento anche in quelle fasce della popolazione storicamente più protette, quelle che magari una volta si sarebbero sentite più sicure. Dati alla mano che si riferiscono, ecco, al 2011, quello mi diceva prima che i dati del 2012 usciranno a breve, leggo che un 41% di chi si rivolge già voi ha un lavoro, quando invece magari chi ci ascolta sarebbe più portato a pensare che in realtà sono solo magari disoccupati o persone che vivono ai margini della società a rivolgersi a Telefono Amico. Ma dunque, dottor Briccola, la sicurezza economica non basta più per avere anche una tranquillità di vita, anche una sicurezza di vita? Certo, no, lei ha perfettamente ragione. Guardi, sono cose infatti un po' strane, no, che succedono in questi servizi come il nostro, o io posso parlare ovviamente solo per il nostro. Noi L'appellante tipo è una persona tra i 36 e i 55 anni, per esempio, cosa che magari non si penserebbe, no? Si penserebbe che siano, che chiamino il nostro servizio i disoccupati, come diceva lei prima, i pensionati, le persone che sono a casa. Invece il numero che ha dato lei prima, del 41%, che sono persone che comunque hanno un lavoro, che sono dei professionisti, la maggioranza della gente di questi, che comunque sentono il bisogno di comunicare con qualcuno, quello che probabilmente al loro fianco manca. Magari anche sono persone che comunque hanno un compagno, una compagna, una famiglia, però poi si rifugiano in servizi come telefono amico, perché forse ti dà una possibilità di sfogo in più, diversa, o quello che forse tu cerchi e non hai dalla tua cerchia, no? Per cui sì, sono dati un po' strani, che non ci si pensa mai. La fascia che le dicevo io prima, tra l'altro, è molto scoperta, perché dai 35 ai 55 si pensa che le persone siano bene, hanno una propria autonomia, hanno un proprio lavoro, abbiano tutto. Invece poi si scopre che queste persone hanno un grandissimo bisogno, soprattutto di ascolto, di comunicare, di parlare con delle persone che anche non conoscono, perché noi siamo assolutamente anonimi, e questo è un valore secondo me per il nostro servizio, perché permette alla gente di sfogarsi e di dire quello che gli passa per la mente senza essere la possibilità di essere riconosciuto, di essere additato, di essere giudicato, di essere qualsiasi cosa. E questo credo sia un vantaggio per l'appellante che chiama, per la persona che chiama, no? Ma infatti penso che si sarebbe portati un pochino a pensare che magari si rivolge a telefono amico, non so, penso agli anziani, o come ho detto prima, alcune fasce della popolazione che sono più borderline, che vivono situazioni più particolari, e tra l'altro adesso ci arriveremo. E invece, come vedevo, che il 30% delle chiamate, oltre il 30% delle chiamate, è proprio composto dalla fascia d'età dei 35-46, come stava dicendo lei, ovvero il periodo, diciamo, della vita in cui si cresce, si hanno responsabilità sempre maggiori, si è fatta una famiglia, i figli vogliono da te determinate cose, moglie o marito, quindi il coniuge, vuole da te determinate cose, e magari tutti i problemi sembrano ricadere proprio sulle proprie spalle. Ma di solito, ecco, in questa parte della vita, tra i 30-50, 35-55, che tipo di aiuto cercano? Che cosa vogliono praticamente da una voce? Da una voce soprattutto vogliono ascolto, soprattutto vogliono condivisione, soprattutto vogliono che la persona dall'altra parte stia con loro e che magari faccia da specchio alle loro problematiche. Quello è quello che noi cerchiamo di fare da sempre. Noi raccogliamo, cerchiamo di fare da specchio, cerchiamo di ridare fiducia a queste persone, che molto spesso, lei capirà, non chiamano per farci complimenti o per dirci come sto bene o come mi piace la vita, ma molto spesso sono persone in un momento di grossissima difficoltà o di grandi difficoltà, no? Per cui ecco, noi cerchiamo di aiutarli, appunto, lasciandoli parlare, dando dei rimandi, cercando di essere presenti, cercando di lasciare queste persone lasciarle andare nel loro modo, e facendoli, come dicevo prima, da specchio, gli facciamo anche capire che forse non sono soli, no? E che comunque devono riprendere la fiducia in loro stessi, perché questo è l'unico modo per uscirne dalla situazione. Noi non siamo dei professionisti, noi non diamo ricette, noi non diamo consigli, cerchiamo solo di far riprendere queste persone, di riprendere la loro fiducia. Solo così si può uscirne da una situazione un po' problematica. È logico che dopo le situazioni più gravi vanno anche aiutate da altri, noi non ci permettiamo di fare questo. Ma senta, leggendo le statistiche mi ha incuriosito il dato che voi avete classificato problema non emerso per oltre un 16%, unito alla durata delle telefonate, che per gli uomini è circa da 1 a 5 minuti nella maggior parte dei casi, e per le donne invece da 16 ai 30 minuti. Questa trasmissione si chiama Luogo Comune, si potrebbe determinare un altro luogo comune, che alle donne piace chiacchierare di più, anche se non stiamo parlando ovviamente di chiacchierate tra amiche, ma chiacchierate, insomma, di sfogo emotivo, per così dire. Però, cioè, quello che voglio capire, uno che telefona sta chiedendo aiuto, però poi non vuole o non sa esprimere il proprio dolore, il proprio malessere, la propria richiesta, e fa durare la telefonata, come ho detto, per caso, per quanto riguarda gli uomini, da 1 a 5 minuti. Ma come operatore, come si fa a tirar fuori il problema da chi non riesce neanche a esprimere, da chi prende la cornetta e rimane lì, che già certo. Il fatto stesso di aver preso la cornetta vuol dire c'ho un problema, però poi certo. non riesce a dire che problema ha. Ma guardi, intanto secondo me lei ha centrato abbastanza bene, molto bene i problemi che queste persone ci poi rimandano, no? Allora, il fatto che per esempio ci siano il 70% delle nostre telefonate che vengono fatte dagli uomini e solo il 30% dalle donne, e che è un dato in aumento ultimamente, una volta era un po' diverso, eravamo quasi 50-50, adesso i maschi sono veramente tanti, si chiamano, no? Però fanno telefonate più corte. Le donne invece, che forse perché sono abituate a relazionarsi già con la loro cerchia, con le loro amiche, che parlano di più, che espongono di più i loro problemi, invece stanno più tempo al telefono. I maschi molto spesso chiudono molto prima la telefonata e magari ti dicono tutto in quel brevissimo tempo, perché lo fanno tranquillamente, non è che molto spesso glielo devi estorcere, anzi lo fanno perché hanno deciso di chiamare quel numero. Io credo che chiamare quel numero non è assolutamente banale, no, è già uno sforzo di per sé. Per cui nel breve tempo noi maschi spesso riusciamo a dire più cose, oppure le diciamo e non poi apriamo un discorso, cosa che invece con le donne succede molto di spesso, per cui le donne meno telefonate, ma telefonate più lunghe, dove si riesce più a stare al telefono con loro, insomma. Senta, ma che differenza, visto che ne stiamo parlando, che differenza c'è tra uomini e donne per quanto riguarda le richieste e per quanto riguarda le preoccupazioni? Cioè che cos'è che preoccupa gli uomini e che cos'è che preoccupa le donne e che cosa lo chiedono gli uni e gli altri? Certo. Infatti non avevo risposto alla domanda di prima. Il non emerso, secondo me, è un po' un dato che gli uomini effettivamente negli ultimi anni ce lo fanno, non ci fanno capire qual è il loro problema. Probabilmente l'uomo in questo periodo, come diceva lei prima, per la recessione economica, per la crisi che c'è in questo momento, tira fuori talmente tante cose che poi alla fine noi, che facciamo una statistica solo su queste chiamate, non riusciamo a definire qual era il problema prevalente di questa persona che ha chiamato, perché è un misto mare di tutto: la crisi, il bisogno economico, la paura di non riuscire ad andare avanti. E per cui il non emerso è un po' questo, e da quanto ne capisco e ne so io, la difficoltà degli uomini in questo periodo è proprio questo, di tutto un po', ma soprattutto la paura del futuro, la paura di non avere un futuro per la propria famiglia, per i figli, di non sapere dove andare a parare. Le donne invece, quindi angoscia per il futuro, potremmo dire, più che altro. Sì, ha perfettamente ragione. Le donne invece molto più spesso sono situazioni legate ai sentimenti, per cui le difficoltà di coppia, comunque il bisogno di compagnia che hanno, molto spesso si va più a parare su queste situazioni che non su questa difficoltà di capire il problema della persona maschio che chiama, no? Io poi leggevo anche una certa tendenza alla depressione, al deprimersi, a uno stato di umore depressivo, ecco, per esprimermi in maniera corretta, delle donne che si rivolgono a telefono amico. Quindi magari un po' più il vedere nero, insomma, la propria... Io non ho usato quella parola depressione, che però è effettivamente molto in voga, no? Noi non vogliamo dare diagnosi alle persone che si amano. Tendenza dell'umore, certo, però, tendenza certo, dell'umore, certo. Diciamo in negativo, ecco, allora mettiamola così, più in negativo, certo, insomma, che certo, in positivo, certo. Ecco. Sì, bisogna anche ammettere che purtroppo al nostro servizio arrivano tante persone che hanno questa problematica psichica o psicologica, no? Il bisogno di parlare, il bisogno di condividere è alto, ed è anche magari uno degli sfoghi per queste malattie, no? Per cui noi facciamo un po' da ricettori di queste problematiche, e forse non credo che siano di più le donne o di più i maschi, credo che ci sia veramente un gran numero di persone che purtroppo con questa problematica usa, brutta parola, ma il nostro servizio, per cui noi siamo là e cerchiamo di fare il possibile per rispondere anche a queste problematiche. Senta, ma dal punto di vista emotivo e psicologico, dottor Bricola, quale fotografia degli italiani come popolo emerge dal suo lavoro? Quale fotografia emerge da telefono amico? Che paese siamo e che problemi abbiamo? Ma è una domanda un po' grossa questa. Comunque, io credo che il telefono amico si ritenga un po' un privilegiato per capire questi problemi che ci sono in Italia, no? nel sociale, e quindi ci riteniamo un po' privilegiati, perché bene o male riusciamo a capire e riusciamo a dire quali sono i problemi delle persone che chiamano. Non è che ne nasce proprio una bella figura dell'italiano medio, no? Perché, come dicevamo prima, c'è tantissimo bisogno di comunicare. Ma credo sia anche normale, no? Se guardiamo un po' la società come sta andando, ormai è sempre più difficile, nonostante tutte le nuove tecnologie, nonostante le realtà virtuali che ci possono essere adesso, comunicare con la persona che è vicino, con il vicino di casa, con la persona che incontri. Quello che noi possiamo dire è che queste sono difficoltà più grosse. Noi da sempre lavoriamo per sviluppare la cultura dell'ascolto, che secondo noi è quella che un po' manca, ma non dico nell'italiano, ma dico forse al mondo, perché noi facciamo parte tra l'altro di organizzazioni europee, anzi internazionali, e un po' tutti hanno questa problematica. Quello che manca è proprio l'ascolto reciproco nelle persone, il condividere i sentimenti con le persone, il condividere un disagio con le persone, un disagio emozionale, non deve essere solo economico. Molto spesso le persone che hanno un disagio emozionale sono molto più in crisi di chi ha un disagio economico, perché il disagio economico in qualche modo poi lo cerchi di superare. No? E poi è reale come disagio, cioè è una cosa che ti dà in un certo senso una spiegazione, la puoi vedere, puoi capire, no? Faccio un lavoro precario, guadagno poco, oppure non ho lavoro, mi hanno licenziato, mentre immagino che il disagio emozionale, il sentimento della solitudine o non avere una voce amica vicino è una cosa che non ti sai neanche spiegare, non ti sai capire, cioè ti trovi un po' smarrito, penso. Sì, assolutamente sì, questa è un po' la problematica, no? E per cui non ci riesci con le persone che hai vicino e ci provi con un servizio come il nostro e come molti altri che ci sono. Però noi siamo un po' da sempre, no? Quelli che ricevono un po' una montagna di telefonate. Da questo punto di vista, noi rispondiamo a più di 100.000 telefonate in un anno, per cui è un numero che fa anche un po' spavento, no? In Italia. E noi siamo una parte di questi ricettori, per cui io sono sempre un po' colpito, nonostante tutte, come dicevo prima, le nuove tecnologie, dal fatto che il nostro servizio comunque regga al passare dei tempi e che ci sia questo gran bisogno, ma anche perché lo capisco, perché parlare con una voce fisica, come sto parlando io con lei in questo momento dall'altra parte, credo sia un valore in più, no? Credo che ti dia comunque la possibilità di sentire che dall'altra parte c'è non solo un orecchio, ma c'è un cuore, c'è una persona che pensa, c'è una persona che ti rimanda e c'è una persona che ti cerca di dare una mano, assolutamente intanto da volontario, perché noi siamo delle persone comunissime. All'interno del nostro servizio ci sono gli operai, io dico sempre che andiamo dagli operai all'insegnante o al professore universitario. Ma qualsiasi persona può fare il nostro servizio. Ma lei pensa che si rivolge formata. Lei pensa che si rivolge al telefono amico più una persona, dati alla mano, non so se ha dei dati in proposito, più una persona che non so, ben istruita o magari invece una persona e quindi anche che ha magari un lavoro dove guadagna di più, oppure ha un grado di istruzione inferiore con un conseguente magari lavoro anche più precario, ecco. Cioè i dati che cosa dicono? Chi è l'utente medio? I dati dicono che purtroppo o per fortuna, non lo so, è trasversale come cosa, certo. Sono proprio le persone che comunque hanno un lavoro, che comunque hanno una situazione lavorativa che è in corso, che comunque non si lamentano mai. Cioè noi, per esempio, sembrerà stupido e banale, però noi la crisi economica dal punto di vista economico non ci viene mai trasmessa. Cioè noi non sentiamo, nessuno ci dice ma non ho una lira per andare avanti, un euro per andare avanti. Per cui quello che passa di più è proprio la difficoltà a gestire il futuro, come dicevamo prima. Non saprò come farò andare avanti, non saprò come potrò dare un aiuto alla mia famiglia. Ma però sono persone che comunque hanno una situazione lavorativa, cioè professionisti, gente che comunque è in crisi in questo momento, lo sappiamo benissimo, però mai che si parla di economico punto e stop, il problema è altro, il problema è dentro di loro, non ce la faccio, cosa posso fare per uscirne da questa situazione? Certo. Senta, dottor Bricola, le faccio una domanda che riguarda due categorie particolari, ovvero innanzitutto gli under 30, mi interessa molto, i giovani chiamano Telefono Amico e che tipo di problemi hanno? Le spiego anche perché le faccio questa domanda, nell'epoca dei telefonini, WhatsApp, Facebook, sì, Skype, sempre connessi, 24 ore su 24, internet flat, tutto il giorno, sempre a smanettare, li vede nelle metropolitane, negli autobus, nei luoghi di lavoro, a scuola, sempre a smanettare con questo cellulare, sempre a voler cercare di comunicare con un altro rispetto a chi magari hai proprio fisicamente vicino, li vedi anche nei ristoranti, non so se le è mai capitato queste scenette, certo, dove tutti allo stesso tavolo stanno tutti quanti col cellulare, quindi stai allo stesso tavolo, hai davanti una persona con cui poter parlare eppure cerchi nel cellulare un altro ancora con cui interloquire, con cui comunicare. Nell'epoca di tutta questa tecnologia di comunicazione, come fa un ragazzo a sentirsi invece solo, tanto da alzare una cornetta, da fare un gesto tra virgolette antico come alzare, certo, la cornetta? Sì, allora, noi non è il target più grosso, quello dei ragazzi o dei giovani sotto i 30 che ci chiamano, comunque ce ne sono molti, eh. Ce ne sono molti che, come dice lei, magari non si fermano a tutto quello che lei ha detto e magari fanno il nostro numero. E là scopri un giovane che è diverso, no? Scopri un giovane che ha veramente delle grosse difficoltà a comunicare nonostante abbia tutto quello che lei ha detto prima. È molto più facile comunicare in quel modo che non colloquiare con un'altra persona dall'altra parte, con una persona che hai vicino, o con la tua compagna, o con il tuo amico. Con il tuo amico non ti metti a discutere e a parlare di un tuo problema, con noi sì. E allora molti di quei giovani che chiamano riesci veramente a sentire intanto di un malessere infinito di questi ragazzi che non riescono a tirarlo fuori. E con noi ci riescono, ripeto, non abbiamo dei numeri altissimi come quelli dei 35 anni, 55 anni, però quando chiamano i giovani veramente ci sono delle telefonate veramente importanti e veramente in cui tu dai il meglio perché devi cercare di trovare il sistema per aiutare questi ragazzi. La seconda categoria di cui volevo parlarle invece era le persone che fisicamente o psichicamente hanno un handicap. Quanto questo può, diciamo, emarginare dalla società? Tanto da dover rivolgersi a un servizio che voi offrite, ecco. Questo è un altro dei grossi problemi. Purtroppo, lei lo sa meglio di me, queste persone molto spesso sono a casa perché quando non vanno i servizi che li aiutano o quando non vanno i servizi da loro, purtroppo queste persone rimangono a casa davanti a una televisione, davanti a una radio, davanti a un computer, però è sempre una macchina, no? E quindi molto spesso si attaccano ai servizi come i nostri, e per cui non dico che ci sia una dipendenza da una parte o dall'altra, però certamente tutto quello che abbiamo detto prima è molto comodo per queste persone, per cui parlare con un'altra persona è sicuramente un valore in più. Noi purtroppo tra i numeri alti che abbiamo molte persone che sono in casa perché non si possono muovere, perché hanno un problema fisico, perché hanno un problema psichico, perché comunque sono là e comunque hanno pochi aiuti da tutti e questi servizi servono anche a questo. È un problema grosso perché poi queste persone ti mettono in difficoltà perché ti chiedono di più e tu non puoi darlo perché noi non facciamo servizi altro, facciamo solo un servizio telefonico, però si sente la difficoltà di queste persone. Dottor Bricola, io quando decisi di preparare questa puntata, tra le domande da fare al mio interlocutore pensavo al discorso proprio dell'amicizia. Cioè, dico, cos'è l'amicizia inteso come può essere il migliore amico o i migliori amici per chi è così fortunato ad averne più di uno, e avere una, il fatto di avere una rete sociale che possono essere i colleghi, gli amici della palestra, gli amici con cui si fa sport, si condivide un hobby, eccetera, eccetera. Ma la cosa che chiedo proprio a lei, dal punto di vista umano, vorrei proprio un suo parere personale, è... Cioè, come si fa a rimanere soli nella propria vita? Cioè, io tenderei a pensare che una persona, non so, deve aver sbagliato qualcosa o essersi mosso male per rimanere proprio da solo. Cioè, nella sua esperienza, quali sono le condizioni che portano a non avere nessuno con cui parlare? Manco un collega, un parente, un vicino di casa? Insomma, quali sono, ecco, queste condizioni che portano una persona proprio a dirsi sola? No, dicevo che secondo me nessuno di noi è solo inteso come solo, però poi è solo nel momento in cui magari esce dal lavoro, esce dalla palestra, esce dalle amicizie che frequenta, che però non sono mai amicizie fino in fondo. Io credo che la difficoltà sia proprio quella di allargare di più la fascia di amicizia, cioè un conto è conoscenza, un conto è amicizia. L'amicizia credo che nella società di adesso sia una parola veramente difficile da raggiungere, credo che sia un livello da raggiungere molto difficile, non c'è più lo spazio per l'amicizia che c'era magari in altri tempi, dove si avevano meno cose da fare, meno tempo per farle, meno possibilità economiche, meno esperienze da fare in una vita, e per cui magari ti trovavi a dover parlare o lo facevi molto volentieri con delle persone che tu ritieni degli amici e che riuscivi a esprimerti anche il tuo essere. No, adesso credo che sia sempre più difficile invece avere un qualcosa di più di una conoscenza. Adesso si hanno moltissime conoscenze ma pochissimi rapporti di amicizia vera. Perché? Perché non lo so, perché non siamo noi che non ci vogliamo esporre, perché sono gli altri che non si vogliono mettere a confronto con noi, perché sono gli altri che non ci ascoltano, perché siamo noi che sbagliamo, non lo saprei dire. I famosi 300 amici su Facebook. Certo, è molto più facile, sì, è sicuramente più facile avere 300 o 3000 su Facebook, ma non avere nessuno con cui parlare, perché poi funziona così, io credo che adesso funzioni proprio così. E noi ne siamo un buon esempio, perché poi se no perché le persone verrebbero a chiamare noi. Io credo che però il fatto che noi siamo telefono amico è una parola grande, no? È una parola che apre a tante cose, magari non ben definita, perché anche il nostro servizio non è ben definito, no? Cosa si fa? Qual è? Voi non avete noi non abbiamo un colore, non siamo i vari telefoni che ci sono, siamo telefono amico, per cui siamo aperti a tutto, no? Da questo punto di vista, e ogni volta che noi alziamo il telefono non sappiamo dall'altra parte cosa ci può essere o chi ci può essere, però la parola amico secondo me è bellissima, se ci aggiungiamo telefono io credo che noi possiamo provare ad essere gli amici di tante persone che sono sole, no? E ci proviamo da 50 anni a questa parte. Senta, l'ultima domanda che le faccio, dottor Piccola, è: qual è il profilo medio degli operatori, chi sono e perché vogliono fare questa esperienza? Allora, come avevo detto prima, il profilo medio, a parte che noi abbiamo, come dicevo prima, un bisogno sempre forte e alto di operatori, perché lei capisce che non è un servizio che uno può fare per tutta la vita, è un servizio anche pesante poi da un certo punto di vista, no? Allora, noi non mettiamo dei paletti, cerchiamo solo delle persone disposte a mettersi in gioco, perché è un servizio che appunto mette molto in gioco il tuo essere, e persone disponibili a dare ascolto, ad essere formate, perché su cui lavoriamo di più è la formazione. Le persone che vengono da noi devono imparare a rispondere negli standard di qualità di Telefono Amico Italia. Quindi si lavora costantemente sulla formazione, perché è la cosa più importante per poter gestire un servizio comune in tanti centri diversi per l'Italia. Noi non abbiamo un profilo, però ecco, secondo me rispecchia un po' il profilo delle persone che chiamano, no? Io credo che la maggioranza dei nostri volontari siano dai 35 ai 55, per esempio, come le dicevo prima. La maggioranza dei nostri volontari però sono donne rispetto ai maschi che chiamano. Noi abbiamo veramente tantissime donne che fanno questo servizio, vuoi per per la disponibilità ai sentimenti che hanno le donne, vuoi perché hanno un sentimento diverso, vuoi perché tutto quello che si vuole mettere. E quindi noi siamo veramente, abbiamo veramente tante donne, però insomma noi non cerchiamo un volontario particolare, cerchiamo una persona che voglia mettersi a confronto con gli altri. Benissimo. E là ci si può lavorare. Benissimo, dottor Bricola, io la ringrazio per essere stato nostro ospite e per questa bella chiacchierata. Io ringrazio voi e spero che ci risentiremo in un altro momento. E ringraziamo Dario Bricola, presidente di Telefono Amico Italia, appunto, per essere stato nostro ospite. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Luogo Comune. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito www.radiocittaperta.it per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative della radio e per sostenere Non esistono più le mezze stazioni, ovvero la campagna di raccolta fondi a favore di questa bella realtà romana. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune. Il logo è quello di Radio Città Aperta, ci sono io che parlo in radio, così mi vedete se siete curiosi. Su Twitter @luogoc, oppure una bella mail con proposte, suggerimenti. Avete un luogo comune di cui volete parlare? Scrivetemelo, insomma, io mi metto all'opera. luogocomune.radio@gmail.com. Da Luogo Comune quindi è tutto, l'appuntamento è per domenica prossima ore 10:45, sempre sugli 88.9 di Radio Città Aperta. Da Valentino De Luca è tutto, una buona domenica, ciao!